7강 어휘 avere o ai a abbiamo avete hanno bambino caldo coda condizionatore d'aria 2 fame figli freddo mal di denti Mal di stomaco. Mal di testa. Medicina. Paura. Problema. Scimmia. Sete. Sonno. Vita. Contento. Forte. Tanto. Psicologico. Troppo. 문형. Che cosa hai in mano? Ho un libro. Che cosa hai? Ho mal di testa. Hai freddo? Sì, ho freddo. Il condizionatore d'aria è troppo forte. Hai paura? No, non ho paura. Ho un gran mal di testa. Non hai la medicina? Deva. Ha una macchina, signor Rossi? Sì, ho una macchina. Che tipo di macchina ha? Ho una piccola Hyundai. Ha figli? Sì, ho due bambini. Sono in Italia o in Corea? Sono qui, in Corea. Non avete problemi nella vita coreana? No, siamo contenti della vita coreana.